Fabrizio Intonti. Ogni volta che finisco in mezzo a una conversazione sul cambiare vita, sul progettare una vita nuova, c'è sempre un grande classico, il momento in cui qualcuno dice: un giorno di questi mollo tutto e apro un bar sulla spiaggia. Io lì rimango sempre perplesso perché dico: ma è così facile aprire questo bar sulla spiaggia? Perché tutti, qualsiasi lavoro facciano, sono convinti che un giorno partiranno e apriranno questo chiosco sulla spiaggia? È come se un barista a un certo punto dicesse: ma io un giorno di questi mollo tutto e apro uno studio legale a Varese. Boh. E comunque torna sempre un grande classico, un grande momento. Allora, oggi parliamo proprio di questo, di quelli che si aprono un chiosco sulla spiaggia. Se l'avete fatto, se ci state pensando, se è il vostro eterno piano B, 800 24 00 24. Lo sai che con 20 milioni si può comprare un bar in Costa Rica? Sulla spiaggia. Sole, mare, tutto l'anno in costume. Nessuno che ti rompe le palle, che ti dice quello che devi fare. Certo, ci vuole coraggio, eh. Bisogna abbandonare tutto. E se ti va male? Il rischio c'è. Del resto, se non rischi, tu non hai mai rischiato. Una volta. Una volta ho messo due fisse a Intercagliere. E questi erano Aldo e Giovanni, temporaneamente senza Giacomo, in Tre Uomini e una Gamba, che dibattevano sul prendersi il rischio e andare ad aprire questo famoso chiosco sulla spiaggia. 4 minuti dopo le 4 del pomeriggio, benvenuti a Giro di Vita. Io sono Achille Corea e noi ogni pomeriggio veniamo qui a parlarvi di gente che ha cambiato vita o ci sta provando. Da oggi, ne approfitto per salutare una nuova fascia di ascoltatori, siamo anche in replica alle 20:30. Benvenuti e... io vi devo dire la verità, noi l'abbiamo cercato per un po', quello che veramente ha aperto il chiosco sulla spiaggia, perché lo dicono in tanti, ma lo fanno in pochi. L'abbiamo trovato finalmente, si chiama Marta Rossato e oggi è in studio con noi, benvenuta. Grazie, ciao a tutti. Marta, come hai deciso di andare a aprire un chiosco sulla spiaggia e soprattutto come ci sei riuscita? Allora, è stata veramente una cosa di pancia, come penso che forse sia la cosa migliore. Io sono arrivata a un certo punto in quest'isoletta fantastica che si chiama Morro de São Paulo, di fronte a Salvador de Bahia, quindi in Brasile, e mi è presa una stretta allo stomaco nel momento stesso in cui ci sono atterrata. Sono stata 3 settimane in vacanza lì e più passavano i giorni e più mi intristivo al pensiero di dover tornare in Italia. Ecco, guarda, penso che sia una cosa abbastanza comune, no? L'idea di... noi ci abbiamo fatto anche una puntata, l'idea di dire: io rimango qui. Però che cosa hai dovuto lasciare in Italia? Cioè, cosa ti aspettava al ritorno in Italia? Beh, in Italia avevo la mia vita, insomma, avevo un lavoro avviato, avevo la famiglia, naturalmente, tutti i miei amici, e avevo anche l'appartamento che avevamo appena preso in affitto con il ragazzo col quale vivevo e col quale però ero anche andata in questa vacanza. Lui aveva fatto il tuo stesso pensiero: rimaniamo qui? Ma in realtà lui mi colpì molto, perché a un certo punto un giorno mi disse: Marta, insomma, non ti sopporto più, mi dici che cos'hai? E io l'ho guardato dritto negli occhi e gli ho detto: io voglio vivere qui. E lui mi ha guardato e mi ha detto: ah. E poi mi fa: e vabbè, proviamoci. Così. E come avete provato? Cioè, il chiosco c'era, ad esempio, l'avete costruito voi con le assi e il martello? Allora, avevamo individuato questo chiosco, questa struttura di legno veramente molto bella, molto semplice, come sono lì, però aveva due pregi particolari. Si trovava in una delle calette, diciamo, più tranquille di questa piccola isoletta, era a meno di 5 metri dal mare e davanti c'aveva una piccola isoletta con una palma piantata sopra. Uno scenario da desktop del computer, sono quelle foto che ti metti sul computer per dire: ah, prima o poi. Voi ce l'avevate lì. Ecco, io credo che di solito guardo a queste storie pensando: non lo farò mai, perché mi manca quel tipo di iniziativa. Voi che avete fatto? Siete andati dal tizio del chiosco e gli avete detto: ce lo lasci? Sì, esattamente, considera che l'isola è molto piccola, si fa presto a fare amicizia, quindi li abbiamo conosciuti e abbiamo indagato sulla possibilità di prenderli in gestione, sul prezzo che insomma ci avrebbero potuto chiedere, e abbiamo detto va bene, noi torniamo in Italia perché non possiamo restare qui senza dire niente a nessuno, però a settembre ci rivediamo, e così abbiamo fatto. Quanto avete tempo avete messo per, diciamo, acclimatarvi, non so, entrare a regime nella gestione di questa cosa? La cosa più, diciamo, eventualmente complessa era acclimatarsi a quel tipo di cultura, perché naturalmente quella brasiliana è molto diversa, vivere su un'isola. Io ci ho messo meno di 24 ore, personalmente. Era veramente la mia vita naturale, me lo dicevano tutti, i brasiliani stessi, sembrava che fossi nata lì. Questo ragazzo, diciamo, invece si è portato un po' più dietro, come dire, uno stile di vita più europeo, quindi lui un po' meno. Ma cioè, ad esempio, quanto costa prendere un chiosco su un'isoletta così? O quanto costa affittarlo, non so? Guarda, costa poco ed era molto semplice, perché non ci sono né molti cavilli e burocrazie, tasse eccetera, così come magari può essere in Italia o in Europa, e costava veramente molto molto poco. Vuoi una cifra proprio? Proviamoci. Ma sì, era all'epoca $500, che però erano dei falsi dollari, perché era un real, diciamo, quindi 500 reais, che poteva ammontare, guarda, da 150 euro a di tanto. Al mese? Sì. No. Sì. Ecco, l'altro dubbio che io ho è, ma se uno questo lavoro non l'ha mai fatto, cioè tu avevi mai gestito un bar, avevi mai servito a un bancone? No, però sono una cliente molto esigente, questo lo devo dire, e adoro veramente stare in mezzo alla gente. Ci vuole una buona dose di pazienza e di creatività, perché noi ci siamo adeguati al loro tipo di cucina, che si chiama comida de praia, uno stile di mangiare, diciamo, legato alla spiaggia eccetera. Però abbiamo anche introdotto delle novità europee, naturalmente, come, vabbè, dagli spaghetti al caffè, che erano veramente molto apprezzate. Ah, l'italiano che può vivere all'estero perché sa fare gli spaghetti e gli altri no. E dimmi una cosa, la vita che si faceva lì era veramente quella che uno sogna? Cioè voi stavate sempre in costume, avevate orari meno stressanti, vi abbronzavate, parlavate, oppure dopo un po' diventa una routine anche lì? Allora, routine no, però naturalmente siamo molto legati alle stagioni, quindi c'erano, guarda, fino a metà dicembre, fino al 20 dicembre io stavo tutto il giorno a molla a giocare a racchettoni, a leggere libri. Quando dall'acqua, dal mare, vedevo qualcuno che si avvicinava di lontano alla mia baracca, nuotavo correndo, mi mettevo dall'altra parte e quello mi guardava tipo, ma te che ci fai qua? Però è anche vero che invece dal 20-24 dicembre fino a tutta la stagione, diciamo fino a Pasqua, quindi tutto marzo, è un lavoro tostissimo, lavori veramente tutto il giorno, non ti fermi mai, però, e diventi anche pallido, però sono pochi mesi. E dimmi, perché ne stiamo parlando al passato? Allora, ne stiamo parlando al passato perché io poi dopo un po' più di un anno sono tornata, e diciamo che il motivo non è stato questo stile di vita o questa esperienza, perché me la porto nel cuore da sempre, ma diciamo che il rapporto con questo uomo col quale mi stavo non ha tenuto, perché abbiamo avuto proprio due reazioni completamente differenti. Io ero diventata brasiliana e lui era diventato tedesco. Ah, quindi non si conciliavano le cose. Ci pensi mai? Hai quei momenti, come si vedono nella pubblicità, in cui ti sogni il chiosco, la spiaggia e tutto quanto? Sì. Perché questa esperienza, diciamo, cioè per me è stata fondamentale, e io da quel momento in poi la mia vita non è stata più la stessa. Ho abbandonato veramente tutto ciò che era di sovrastruttura e ho cercato sempre la libertà e l'indipendenza. Che cosa fai adesso? Adesso io sono un consulente, lavoro nel turismo, ma ho di nuovo il progetto di cambiare vita perché voglio fare la fotografa. Guarda, quando uno comincia a cambiare vita non si ferma mai. Dai due consigli ai nostri ascoltatori. La valigia e la zavorra. Allora, per provare ad aprire questo chiosco sulla spiaggia, per fare una vita di questo tipo, che cosa bisogna portarsi dietro? Guarda, se ce l'avete, l'amore della vita, perché è proprio un'altra storia partire con qualcuno e dividere un'esperienza di vita con qualcuno. Molto pragmatismo e tanto entusiasmo. E cosa bisogna lasciare qua? Le nostre vita precedente, tutto il modo di vita che noi pensiamo che ce lo faccia vivere la società, no, in cui ci troviamo, ma dobbiamo vedere un po' quanto è nostro e dobbiamo assolutamente lasciarlo andare. Noi cominciamo a entrare in questo mood, ma vogliamo anche sentire voi, aspiranti baristi, aspiranti chioscatori, aspiranti gestori da spiaggia, 800 24 0024. Controindicazioni. Questa scelta di vita è fortemente sconsigliata a chi soffre di reumatismi articolari, chi va in astinenza se non controlla la mail ogni 10 minuti, chi perde la concentrazione davanti a donne in bikini e uomini tartarugati, chi pensa che il margarita sia una pizza sudamericana, chi si sente un idiota in camicia hawaiana e bandana, chi si illude di trovare una spiaggia senza turisti italiani. E lo so, noi cerchiamo di darvi un pochino di controindicazioni perché la scelta è affascinante, il chiosco sulla spiaggia, la vita in costume, quello che sta in acqua e poi quando vede da lontano il turista che si avvicina corre a mettersi dietro il bancone. Noi abbiamo bisogno anche di sentire qualcuno che ci dica che è una vita dura, che è una vita durissima. E se lo facessi io? Allora, boh, vediamo se mi smonta Adriano Del Gaizzo, che è un barman esperto e che ha avuto diverse esperienze anche all'estero e su navi da crociera. Pronto Adriano, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao ciao. Allora Adriano, tu hai lavorato in molti posti e magari, non so, hai conosciuto tanta gente che vedeva il tuo lavoro come un punto d'arrivo? Sì, ho lavorato per 12 anni sulle barche da crociera, sui panfili privati, e nei migliori locali della Versilia e nei Caraibi, giù in Brasile, appunto, come diceva poc'anzi Marta, la signorina. Sì. E che, come vedi quelli che ti guardano dietro il bancone e dicono vorrei farlo anch'io? non è tutto oro quello che luccica, cioè al momento uno sembra bello, siamo a contatti con della bella gente, con gente che si diverte, quindi i pensieri vengono scacciati, siamo subito a contatto con della gente che si vuole divertire, quindi tutti allevi, tutto bene. Ma dalla parte del bancone il lavoro, se uno lo fa seriamente, è molto duro. E scambiamo la notte per il giorno, si inizia a lavorare quando cala il sole e si va a letto quando comincia a sorgere. Adriano, qual è secondo te la cosa che uno più difficilmente riesce a immaginare quando vorrebbe fare questo tipo di lavoro? E il sacrificio che c'è dietro, che c'è molto sacrificio e molta professionalità, cosa che purtroppo al giorno d'oggi nel mio campo lascia molto tempo che trova, appunto perché ci sono questi giovani giustamente che per sbarcare in un aereo si buttano dietro un banco, ma in realtà ci vuole molta preparazione, molta cultura, perché abbiamo a che fare con gente, come diceva la signorina, di molte razze diverse, quindi bisogna essere un po' pronti a affrontare qualsiasi tipo di discussione, di qualsiasi tipo di clientela, francese, inglese, spagnola, ci vuole anche un po' di cultura linguistica, insomma. Gestire il cliente, sì. E dimmi una cosa, tu l'hai fatto solo come dipendente, come barman, o hai anche avuto un locale tuo? No, ho avuto anche un locale mio in Versilia e appunto ho trovato proprio molto l'impatto e la differenza, appunto, che prima ero nei Caraibi, ero a giro con altre persone, altro tipo di clientela. Una volta arrivato in Versilia, ho aperto locale, mi sono trovato con una realtà molto diversa, molto più spicciola, molto più, appunto, la gente che prende la sua bevuta, qualsiasi cosa che chiede, qualsiasi cosa che gli fa gli sta bene, perché non c'è una cultura per saper bere, purtroppo, cosa che invece nei Caraibi o in America è una vera e propria cultura. So che tu a un certo punto hai smesso, hai cambiato proprio lavoro. Sì, ho smesso appunto perché mi sono trovato a litigare, fra virgolette, con un cliente non si litiga mai, ma a trovarmi un po' spiazzato alle richieste di queste bevute oscene, Sex on the Beach, Orgasmo, Deserto Infuocato, tutte queste cose che non hanno né una logica né un bere bene, anzi, volersi fare del male, ecco. Va bene, ma non ti manca mai quel lavoro? No, mi manca, infatti non l'ho abbandonato del tutto. Ho messo su Investire una piccola agenzia di catering, faccio il mio servizio nelle ville, nei bagni e in spiaggia in Versilia, appunto apportando un servizio, diciamo, dei vecchi tempi. La qualità invece della quantità, diciamo così. Esatto, la qualità, la cosa che purtroppo manca al giorno d'oggi, anche i locali sono tutti impostati per la grande quantità e non per la qualità del drink o del singolo cliente. Grazie Adriano per averci raccontato la tua esperienza. Io vedo che l'America si scola i favolosi cocktail che io faccio. Preparo drink che infiammano tutte le ragazze. L'Ice-T, il kamikaze. Preparamene due. L'orgasmo. Eccolo qua, secondo me un grande colpevole di questo mito del barista, Tom Cruise in Cocktail, il film che ha convinto generazioni di giovani che bastava fare il barista per rimorchiare donne stupende, disponibili e giovani ereditarie newyorkesi che erano lì ad aspettare solo te. 800 24 00 24, sentiamo Claudio, pronto? Pronto. Allora, il bar sulla spiaggia, il chiosco, ci stai pensando o l'hai fatto? No, ci sto pensando, ci stiamo pensando con la mia compagna da tantissimi anni e si sta avvicinando il momento, l'ultimo tanto desiderato. Ma voi avete proprio un piano preciso per raggiungere questo obiettivo? Sì, una laurea di un figlio, l'altro che decida cosa vuol fare alla finita la maturità e poi il luogo l'abbiamo già individuato 20 anni fa. Il luogo qual è? È l'isola Margarita, nei Caraibi, isola venezuelana. Claudio, quanti anni avete, scusa? 56, caso. 56 e 52. Quindi non vai a fare Tom Cruise sulla spiaggia, no, vai a... No, io voglio prendere, take it easy, prendere tutto molto comodo, come viene, viene, come va poi in Venezuela. Che lavoro fate adesso? Sono ingegnere, imprenditore edile, immobiliarista e tanta burocrazia di cui disintossicarsi. E quindi tu vuoi buttare via le carte e i progetti per fare... Voglio il PC, le carte, i progetti, tenere un pochino di buona musica che i miei figli mi hanno messo nell'iPod e alzarmi alle 9, aprire il chioschetto 10:30, ma già alle 14 chiuderlo. Ma qual è il tuo piano di avvicinamento? Tu hai provato a gestire un bar, a metterti dietro un bancone, sugli aspetti pratici? No, avevo sulle Dolomiti, da cui sto provenendo in questo momento, sono sull'autostrada, ne avevo uno, un bistrò piano bar, più un albergo, più sono sempre cresciuto nel turistico, nel ricettivo turistico. Quindi è un ritorno dietro, a casa. Sono stato anche dietro il bancone un 15 agosto di tanti anni fa, quando licenziai il barman perché le cose non andavano, perché ci improvvisammo con il long drink, i cocktail era una cosa un po' più difficile all'epoca, poi dopo sono venuti anche quelli. Ecco, io mi immagino l'ingegnere, te lo sei progettato tu il chiosco, hai tutti i piani anche sui costi, la gestione. Guarda, c'è sotto una palma, una barra circolare, 4 scranni, ma niente di che, eh. Ma secondo te quanti soldi ci vogliono? Secondo te, secondo me lo sai già, quanti soldi ci vogliono? Per aprirlo? Sì, sì. Ma il problema, guarda, è portare via le cose alla sera, perché sennò al mattino non trovi nulla. Però per aprirlo ci vogliono $200, $300, ma neanche. $200? Cioè, mi stai quasi convincendo. $200, $300. Margarita, Playa del Lago, Playa del Caribe, se volessi da qualche altra dritta, ma è così. Va bene, sembri veramente molto convinto, quindi noi ti auguriamo intanto di... Da quanti anni ci stai pensando? Ne mancano 4. Da quanti lavoravo là nel 91-92, la mia famiglia era lì con me e dall'epoca, dal 92 ci stiamo pensando. Grazie Claudio, anche perché insomma ci dimostri ancora una volta che le fughe, i cambi di vita, i piani B non si improvvisano in una giornata, ma si preparano a volte per anni e anni. Ugo, pronto? Buongiorno. Allora, lo stai facendo, lo devi fare, ci stai pensando? No, io volevo fare i complimenti con la ragazza che parlava prima, che ha detto che ne aveva fatto, mi dispiace che il suo amore non ha continuato, in modo che è finita anche la sua... chioscato, se possiamo dirlo, sì, ma per me è intelligentissimo. Io ho chiamato perché stavo proprio parlando con la mia ragazza di questa Italia molto burocratica, molto che lavoro strana, fai, Ugo? Insomma. Cosa fai qua? Io, ricollegandomi al discorso della ragazza, sono una persona molto libera, per fortuna, ho 6 ettari di terra, faccio il contadino, ecco. E vorresti aprire il chiosco? Sì, ho sempre fatto il cameriere e il barista, poi quando mio papà si è ammalato aveva questa terra e ho deciso di cambiare perché mi ero stancato della, come si dice, della monotonia, della frenesia del cameriere, del barista, lavorare la notte, ho lavorato nelle discoteche, sono di Rizzone e quindi mi... Ma ce l'hai un posto, ce l'hai un'idea, dove lo metti questo chiosco? Ah, non lo so, dove ci sia, il mare, Brasile, Cuba, non lo so. Non ma ne tu ho sei di Riccione, ti manca il mare? Beh, sono direzione di Manca il Mare, in questo momento sto inforcando le balle col trattore. Quindi sì, ho capito, ti manca il mare. Diciamo che al mare ci vado in ottobre da tutte le parti, tranne che a nessuno, insomma. Ho capito. No, capisco benissimo. Però faccio veramente i complimenti a quella ragazza che parlavo prima, perché per me ha avuto un'idea geniale, ecco. Grazie Ugo. 800 24 00 24. Beh, più che l'idea geniale, però è il farlo, perché l'idea non sembra così geniale. Apro il chiosco sulla spiaggia, punto. Però poi devi fare la valigia e andare. Guarda, non ti so spiegare, ma è venuto tutto così naturale. Tra l'altro abbiamo dovuto affrontare anche delle cose pratiche in quel mese in cui siamo tornati a Roma, licenziarci ad esempio, lasciare la casa che avevamo appena preso in affitto, vendere la macchina, salutare, dirlo ai nostri genitori, però non lo so, è stata una cosa che ci ha preso con tale entusiasmo e convinzione che abbiamo convinto tutti, e tutti ci hanno fatto in bocca al lupo andato. E anche se quello, secondo me, quando racconti queste cose tutti dicono bravi bravi, andate andate, armiamoci e partite voi. Nella nostra pagina Facebook, che si chiama Giro di Vita, se la cercate su Facebook poi basta cliccare su mi piace o su like per mettervi in contatto con noi, una serie di complimenti a Marta. Qualcuno chiede se serve una barista per un nuovo, per una nuova avventura. Qualcuno si complimenta per la parola chiave che è niente burocrazia, e qualcuno dice che bello avere il piglio giusto per aprire sul serio il chiosco sulla spiaggia. Ci penso oggi incurvata sul PC e presa da vari affari lavorativi. E quello è il piglio, il momento in cui decidi e poi lo fai, non lo dice basta. Assolutamente, ci vuole coraggio, è vero, però non lo so, penso che in certi momenti basta, sei deciso, sei convinto, sei sicuro di te. Io mi ricordo che ho fatto questo pensiero e vabbè, tanto io voglio dire, c'ho la laurea, c'ho il lavoro, c'ho tutto, quello che ho fatto fino adesso, se poi mi vanno male vuol dire che ci ripenserò. Senti, il fidanzato era con te, ma le mamme, le zie, i nonni che hanno detto? Allora, io mi ricordo il commento di mio padre, che mi guardò con un'aria un po' sconsolata e disse: ma il Brasile è lontano. È effettivamente lontano. Nel corso di quell'anno e rotti, quante volte sei tornata? Siamo tornati una volta, insomma, dopo 6 mesi, e poi sono venuti anche i miei genitori, sorelle, insomma, amici anche a trovarci. Lì, riscopri dei parenti che non pensavi nemmeno di avere. Ma appena sì. Dici ho un chiosco con possibilità di ospitarvi, lì riscopri dei parenti alla lontana. 800 24 00 24. Gregorio, pronto? Sì, buongiorno. Gregorio, dici tutto. La mia storia è questa. Abito a Perugia. Sì. A Perugia l'anno scorso ho preso in gestione un bar. Il bar si chiama Bel Bar. È veramente la Bel Bar. Si chiama Bel Bar, è un bel bar. Didascalico, sì. Sì. La storia è questa. L'ho tenuto fino a 3-4 mesi. Dopo 3-4 mesi il proprietario della struttura, non della struttura, delle mura, è stato erare lo strato, non mi ha detto niente. Poi in casa ho messo su quel bel bar per fare ristrutturazione, nel senso di mettere le cappe a posto, questo, quest'altro, un po' di soldi. E quindi non hai fatto più il barman? No, l'ho fatto sempre. Ho fatto il barman, ho fatto il self-service, ho fatto tutto, capito? E quindi, cioè, cosa stai pensando di fare? Cameriere, cuoco, lavapiatti, tutto per questa struttura ho fatto da Z proprio. E poi è finita così. Ho lavorato più io che i dipendenti. Ho capito. Vabbè, è finita così e ci dispiace molto. Però, tornando a Marta, diamo qualche altro consiglio, perché siamo quasi in chiusura, a chi volesse fare una cosa del genere. Non è necessariamente il chiosco, cioè per diciamo acclimatarsi il più rapidamente possibile in un posto così lontano e diverso da noi. Lo devi amare, credo, fondamentalmente, e devi cercare anche di capirlo, e ti devi gustare tutte quelle cose nuove, diverse che questo posto e le persone ti propongono. Io non ho avuto nostalgia, diciamo, dei miei amici, perché ho sempre sentito che, insomma, stavano con me. Le foto me le sono portate tutte, questo lo ammetto. Va bene, siamo arrivati alla chiusura e quindi è il momento di salutarci. Allora, io devo dirvi che questa me la metto, siccome io poi alla fine della puntata mi faccio sempre dei miei appuntini per vedere se poi a settembre è il caso di diciamo recuperare qualche puntata e andare a scegliere una delle strade che ci hanno indicato. Però questa qua me la metterei nella categoria si lavora più dopo che prima, si fatica più dopo che prima, se permettete. Io vi saluto qui, se avete delle storie da raccontarci oppure se volete sfogarvi, se volete raccontarci qualcosa, giro di vita @radio24.it oppure andate su Facebook se ce l'avete e cercate la pagina di Giro di Vita. Io ringrazio Fabrizio Intonti e ringrazio Alessandro Chiappini, io sono Achille Corea, ci risentiamo domani e se c'è qualcos'altro che ci volete dire fateci un colpo di telefono. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.